Ad alta voce. Omero Antonutti legge Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. In grazia della sua spaziosa veduta, prese in affitto la camera di via Ripetta, che peraltro era addobbata con graziosa semplicità di tappezzeria chiara, bianca e celeste. «Questo terrazzino qui accanto, vuole dirmi la ragazzetta in veste da camera, appartiene pure a noi, almeno per ora. Lo butteranno giù, dicono, perché fa aggetto». «Fa che cosa?» «Aggetto? Non si dice così? Ma ci vorrà del tempo prima che sia finito il Lungotevere». Sentendola parlare piano, con tanta serietà, vestito a quel modo, sorrisi e dissi: «Ah sì?» Se ne offese, chinò gli occhi e si strinse un po' il labbro fra i denti per farle piacere. Allora le parlai anch'io con gravità: «E scusi, signorina, non ci sono bambini, è vero, in casa?» Scosse il capo senza aprir bocca. Forse nella mia domanda sentì ancora un sapore di ironia, che io però non avevo voluto metterci. Avevo detto bambini e non bambine. Mi affrettai a riparare un'altra volta. «E dica, signorina, loro non affittano altre camere, è vero?» «Questa è la migliore», mi rispose senza guardarmi. «Se non le accomoda...» «No, no, no. Domandavo per sapere se ne affittiamo un'altra», disse allora ella, alzando gli occhi con aria di indifferenza forzata. «Di là, posta sul davanti, sulla via, è occupata da una signorina che sta con noi ormai da 2 anni, dà lezioni di pianoforte. No, non in casa», accennò così dicendo, un sorriso lieve lieve e mesto. Aggiunse: «Siamo io, il babbo e mio cognato». «Paleari? No, no, Paleari è il babbo. Mio cognato si chiama Terenzio Papiano. Deve però andar via col fratello, che per ora sta anche lui qua con noi. Mia sorella è morta da 6 mesi. Per cangiar discorso, le domandai che pigione avrei dovuto pagare. Ci accomodammo subito. Le domandai anche se bisognava lasciare una caparra. «Faccia lei», mi rispose. «Se vuole piuttosto lasciare il nome...» Mi tastai in petto, sorridendo nervosamente, e dissi: non ho neppure un biglietto da visita. Mi chiamo Adriano. Sì, appunto, ho sentito che si chiama Adriana anche lei, signorina. Forse le farà dispiacere?» «Ma no, perché?» fece lei, notando evidentemente il mio curioso imbarazzo, e ridendo questa volta come una vera bambina. Risi anch'io e soggiunsi: «E allora, se non le dispiace, mi chiamo Adriano Meis». «Oh, ecco fatto. Potrei alloggiare qua stasera stessa?» «Oh, no, tornerò meglio domani mattina». Ella rispose: «Come vuole». Ma io me ne andai, con l'impressione che le avrei fatto un gran piacere se non fosse più tornato. Avevo osato niente meno di non tenere nella debita considerazione quella sua veste da camera. Potei vedere però, a toccar con mano pochi giorni dopo, che la povera fanciulla doveva proprio portarla quella veste da camera, di cui ben volentieri forse avrebbe fatto a meno. Tutto il peso della casa era sulle sue spalle, e guai se non ci fosse stata lei. Il padre, Anselmo Paleari, quel vecchio che mi era venuto innanzi con un turbante di spuma in capo, aveva pure così come di spuma il cervello. Lo stesso giorno che entrai in casa sua mi si presentò, non tanto, disse, per rifarmi le scuse del modo poco decente in cui mi si era presentato la prima volta, quanto per il piacere di fare la mia conoscenza, avendo io l'aspetto di uno studioso o di un artista, forse. «Sbaglio?» «Sbaglia. Artista per niente, studioso così così. Mi piace leggere qualche libro». «Oh, ne ha di buoni», fece lui, guardando i dorsi di quei pochi che avevo già disposti sul palchetto della scrivania. «Poi, qualche altro giorno, le mostrerò i miei, ne ho di buoni anch'io. Ma...» E scrollò le spalle e rimase lì, astratto, con gli occhi invagati, evidentemente senza ricordarsi più nulla, né dov'era, né con chi era. Ripeté altre 2 volte «ma», con gli angoli della bocca contratti in giù, e mi voltò le spalle per andarsene senza salutarmi. Ne provai lì per lì una certa meraviglia, ma poi, quando egli nella sua camera mi mostrò i libri, come aveva promesso, non solo quella piccola distrazione di mente mi spiegai, ma anche tante altre cose. Quei libri recavano titoli di questo genere: La mort et l'au-delà, Karma, La clé de la théosophie, La doctrine secrète, eccetera, eccetera. Era scritto alla scuola teosofica il signor Anselmo Paleari. Lo avevano messo a riposo da caposezione in non so quale ministero prima del tempo e lo avevano rovinato, non solo finanziariamente, ma anche perché, libero e padrone del suo tempo, egli si era adesso sprofondato tutto nei suoi fantastici studi e nelle sue nuvolose meditazioni, astraendosi più che mai dalla vita materiale. Perlomeno mezza la sua pensione doveva andarsene nell'acquisto di quei libri. Già se n'era fatta una piccola biblioteca. La dottrina teosofica, però, non doveva soddisfarlo interamente. Certo, il tarlo della critica lo rodeva, perché accanto a quei libri di teosofia aveva anche una ricca collezione di saggi e di studi filosofici antichi e moderni e libri di indagine scientifica. In quegli ultimi tempi si era dato anche agli esperimenti spiritici. Aveva scoperto nella signorina Silvia Caporale, maestra di pianoforte sua inquilina, straordinarie facoltà medianiche, non ancora bene sviluppate per dir la verità, ma che si sarebbero senza dubbio sviluppate col tempo e con l'esercizio, fino a rivelarsi superiori a quelle di tutti i medium più celebrati. Io, per conto mio, posso attestare di non aver mai veduto in una faccia volgarmente brutta da maschera carnevalesca un paio d'occhi più dolenti di quelli della signorina Silvia Caporale. Erano nerissimi, intensi, ovati, e danno l'impressione che dovessero aver dietro un contrappeso di piombo, come quelli delle bambole automatiche. La signorina Silvia Caporale aveva più di 40 anni e anche un bel paio di baffi sotto il naso a pallottola, sempre acceso. Seppi poi che questa povera donna era arrabbiata d'amore e beveva. Si sapeva brutta, ormai vecchia, e per disperazione beveva. Certe sere si riduceva in casa in uno stato veramente deplorevole, col capellino sghimbescio, la pallottola del naso rossa come una carota e gli occhi socchiusi più dolenti che mai. Si buttava sul letto e subito tutto il vino bevuto le rovinava fuori, trasformato in un infinito torrente di lacrime. Toccava allora alla povera piccola mammina in veste da camera vegliarla, confortarla, fino a tarda notte. Ne aveva pietà, pietà che vinceva la nausea. La sapeva sola al mondo e infelicissima, con quella rabbia in corpo che le faceva odiar la vita a cui già 2 volte aveva tentato. La induceva piano piano a prometterle che sarebbe stata buona, che non l'avrebbe fatto più e, sì signori, il giorno appresso se la vedeva comparir tutta infronzolata e con certe mossette da scimmia trasformata di punto in bianco in bambina ingenua e capricciosa. Le poche lire che le avveniva di guadagnare di tanto in tanto, facendo provare le canzonette a qualche attrice esordiente di caffè concerto, se ne andavano così, o per bere o per infronzolarsi. Ed ella non pagava né l'affitto della camera né quel po' che le davano da mangiare là in famiglia. Ma non si poteva mandar via. Come avrebbe fatto il signor Anselmo Paleari per i suoi esperimenti spiritici? C'era in fondo però un'altra ragione. La signorina Caporale, 2 anni avanti, alla morte della madre, aveva smesso casa e, venendo a vivere lì dai Paleari, aveva affidato circa 6.000 lire ricavate dalla vendita dei mobili a Terenzio Papiano per un negozio che questi le aveva proposto sicurissimo e lucroso. Le 6.000 lire erano sparite. La piccola mammina Adriana era religiosa. Me ne accorsi fin dai primi giorni per via di un'acquasantiera di vetro azzurro appesa a muro sopra il tavolino da notte accanto al mio letto. M'ero coricato con la sigaretta in bocca ancora accesa e m'ero messo a leggere uno di quei libri del Paleari. Distratto, avevo poi posato il mozzicone spento in quell'acquasantiera. Il giorno dopo essa non c'era più. Sul tavolino da notte invece c'era un portacenere. Volli domandarle se la avesse tolta lei dal muro, ed ella, arrossendo leggermente, mi rispose: «Scusi tanto, m'è parso che le bisognasse piuttosto un portacenere». Ma c'era acqua benedetta nell'acqua santiera? C'era. Abbiamo qui di rimpetto la chiesa di San Rocco. E se ne andò. Mi voleva dunque santo quella piccola mammina, se al fonte di San Rocco aveva attinto l'acqua benedetta anche per la mia acqua santiera. Per la mia e per la sua, certamente. Il padre non doveva usarne, e nell'acqua santiera della signorina caporale, seppure ne aveva, vi insanto piuttosto. Il signor Anselmo Paleari mi metteva innanzi di continuo l'ombra della morte. Non sapeva più parlare d'altro, questo benedetto uomo. Ne parlava però con tanto fervore e gli scappavano fuori di tratto in tratto nella foga del discorso certe immagini e certe espressioni così singolari che ascoltandolo mi passava subito la voglia di cavarmelo d'attorno ed andarmene ad abitare altrove. Del resto, la dottrina e la fede del signor Paleari, tutto che mi sembrassero talvolta puerili, erano in fondo confortanti. E poiché purtroppo mi s'era affacciata l'idea che un giorno o l'altro io dovevo pur morire sul serio, non mi dispiaceva di sentirne parlare a quel modo. «C'è logica?» mi domandò egli un giorno, dopo avermi letto un passo di un libro del Finot, pieno d'una filosofia così sentimentalmente macabra che pareva il sogno d'un becchino morfinomane sulla vita niente meno dei vermi nati dalla decomposizione del corpo umano. «C'è logica? Materia, sì, materia. Ammettiamo che tutto sia materia, ma c'è forma e forma, modo e modo, qualità e qualità. C'è il sasso e l'etere imponderabile, per Dio. Nel mio stesso corpo c'è l'unghia, il dente, il pelo, e c'è perbacco il finissimo tessuto oculare. Ora, sì signora, chi vi dice di no? Quella che chiamiamo anima sarà materia anch'essa, ma vorrete ammettermi che non sarà materia come l'unghia, come il dente, come il pelo, sarà materia come l'etere, o che so io. L'etere sì, la mettete come ipotesi e l'anima no? C'è logica? Materia, sì signore, segua il mio ragionamento e veda un po' dove arrivo concedendo tutto. Veniamo alla natura. Noi consideriamo adesso l'uomo come l'erede di una serie innumerevole di generazioni, è vero? Come il prodotto di una elaborazione ben lenta della natura. Lei, caro signor Meis, ritiene che sia una bestia anch'esso, crudelissima bestia, e nel suo insieme ben poco pregevole. Concedo anche questo e dico, sta bene, l'uomo rappresenta nella scala degli esseri un gradino non molto elevato. Dal verme all'uomo poniamo 8, poniamo 7, poniamo 5 gradini, ma per Diana la natura ha faticato migliaia di secoli per salire questi 5 gradini dal verme all'uomo. Si è dovuta elevare, è vero, questa materia per raggiungere come forma e come sostanza questo quinto gradino, per diventare questa bestia che ruba, questa bestia che uccide, questa bestia bugiarda, ma che pure è capace di scrivere la Divina Commedia, signor Meis, e di sacrificarsi come ha fatto sua madre e mia madre. E tutto un tratto, paffete, torna a zero. C'è logica? Ma diventerà verme il mio naso, il mio piede, non l'anima mia, perbacco. Materia anch'essa, sì signore, chi vi dice di no? Ma non come il mio naso o come il mio piede. C'è logica? Scusi, signor Paleari, gli obiettai io. Un grand'uomo passeggia, cade, batte la testa, diventa scemo. Dov'è l'anima? Il signor Anselmo restò un tratto a guardare, come se improvvisamente gli fosse caduto un macigno innanzi ai piedi. Dov'è l'anima? Sì, sì, lei o io che non sono un grand'uomo, ma che pure, via, ragiono, passeggio, cado, batto la testa, divento scemo. Dov'è l'anima? Il Paleari giunse le mani e con espressione di benigno compatimento mi rispose: «Ma santo Dio, perché vuole cadere e battere la testa, caro signor Meis?» «Per un'ipotesi. Ma no, signore! No, signore, passeggi pure tranquillamente. Prendiamo i vecchi che, senza bisogno di cadere e battere la testa, possono naturalmente diventar scemi. Ebbene, ebbene, che vuol dire? Immagini un pianoforte e un suonatore. A un certo punto, suonando, il pianoforte si scorda. Un tasto non batte più. Due, tre corde si spezzano. Ebbene, le sfido. Con uno strumento così ridotto, il suonatore, per forza, pur essendo bravissimo, dovrà suonar male. E se il pianoforte poi tace, non esiste più neanche il suonatore? Il cervello sarebbe il pianoforte? Il suonatore l'anima? Ma vecchio paragone, signor Meis, ora, se il cervello si guasta per forza, l'anima s'appalesa, scema o matta, o che so io, vuol dire che se il suonatore avrà rotto, non per disgrazia, ma per inavvertenza o per volontà, lo strumento, pagherà. Chi rompe, paga. Si paga tutto, tutto si paga. Ma questa è un'altra questione. Il signor Paleari non si curava di saper nulla di me. Pago dell'attenzione che io prestavo ai suoi discorsi. Quasi ogni mattina, dopo la consueta abluzione di tutto il corpo, mi accompagnava nelle mie passeggiate. Andavamo o sul Gianicolo, o sull'Aventino, o su Monte Mario, talvolta sino a Ponte Nomentano, sempre parlando della morte. Ed ecco che bel guadagno ho fatto io, pensavo, a non essere morto davvero. Tentavo qualche volta di trarlo a parlar d'altro, ma pareva che il signor Paleari non avesse occhi per lo spettacolo della vita intorno. Camminava quasi sempre col cappello in mano. A un certo punto lo alzava come per salutare qualche ombra ed esclamava: «Sciocchezze!». Una sola volta mi rivolse all'improvviso una domanda particolare: «Perché sta a Roma lei, signor Meis?». Mi strinsi nelle spalle e gli risposi: «Perché mi piace di starci». «Eppure è una città triste», osservò egli, scotendo il capo. «Molti non vogliono riconoscere che Roma è morta». «Morta anche Roma», esclamai costernato. «Da gran tempo, signor Meis, è devano, creda, ogni sforzo per farla rivivere. Chiusa, chiusa nel sogno del suo maestoso passato, non ne vuol più sapere di questa vita meschina. Quando una città ha avuto una vita come quella di Roma, con caratteri così spiccati e particolari, non può diventare una città moderna, cioè una città come un'altra. Roma giace là, col suo gran cuore frantumato, alle spalle del Campidoglio. Sono forse di Roma queste nuove case?». «Guardi, signor Meis, mia figlia Adriana mi ha detto dell'acquasantiera che stava in camera sua, si ricorda? Adriana gliela tolse dalla camera quell'acquasantiera, ma l'altro giorno le cadde di mano e si ruppe. Ne rimase soltanto la conchetta e questa ora è in camera mia, sulla mia scrivania, adibita all'uso che lei per primo distrattamente ne aveva fatto. Ebbene, signor Meis, il destino di Roma è l'identico. I papi ne avevano fatto, a modo loro si intende, un'acquasantiera. Noi italiani ne abbiamo fatto, a modo nostro, un portacenere. D'ogni paese siamo venuti qua a scuotervi la cenere del nostro sigaro, che è poi il simbolo della frivolezza di questa miserrima vita nostra e dell'amaro e velenoso piacere che essa ci dà». Man mano che la familiarità cresceva per la considerazione e la benevolenza che mi dimostrava il padron di casa, cresceva anche per me la difficoltà del trattare, il segreto impaccio che già avevo provato e che spesso ora diventava acuto come un rimorso nel vedermi lì, intruso in quella famiglia, con un nome falso, coi lineamenti alterati, con una esistenza fittizia e quasi inconsistente. E mi proponevo di trarmi in disparte quanto più fosse possibile, ricordando di continuo a me stesso che non dovevo accostarmi troppo alla vita altrui, che dovevo sfuggire ogni intimità e contentarmi di vivere così for fuori. «Libero», dicevo ancora, ma già cominciavo a penetrare il senso e a misurare i confini di questa mia libertà. Omero Antonutti ha letto Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it